ad alta voce. Andrea Pennacchi legge Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. Ottava puntata. Venne la notte e arrivammo in un piccolo paese della steppa. Non so che giorno o che notte fosse. So che faceva molto freddo e avevamo anche fame. Ci trovammo riuniti con gli altri plotoni della compagnia e con il battaglione. Ormai eravamo nel nostro ambiente. Si sentiva parlare bresciano. Anche il maggiore Bracchi parlava bresciano. Corais chet, forza chet. Il maggiore Bracchi, cappello in testa, scarpe Vibram, sigaretta in bocca, gradi di banda sulle maniche del pastrano, il passo sicuro, occhi azzurri e voce che infondevano serenità. Coraggio ragazzi, diceva in bresciano, per Pasqua saremo a casa a mangiare il capretto. Chiamava per nome or l'uno or l'altro di noi e sorrideva. Barba di Becco, disse, così mi chiamava lui, Barba di Becco, o vecchio. Mi sembri diventato un po' magro e trasandato. Una pasta asciutta ti vorrebbe, eh? O un liter de neger. Naia potente se ci vorrebbe, dissi. Anche due. E lei non ci starebbe? Sure majur, gli disse Bodei. Deve restare consegnato. Le manca un bottone sul pastrano e ha la penna storta. E in culet chavad, gli rispose il maggiore. E il maggiore sorrideva e scherzava quando parlava con noi, ma poi diventava serio e gli occhi si spegnevano. E io pensavo, Pasqua è ancora lontana, abbiamo appena passato Natale e tanti chilometri ci sono da camminare. Era notte e molto freddo. E si era con le scarpe nella neve in attesa di ordini. Vedevo che il capitano era stanco da non poterne più. Il tenente Cenci, avvolto in una coperta come in uno scialle, fumava una sigaretta dietro l'altra e ogni tanto bestemmiava. Quando succhiava il fumo, vedevo le braccia accendersi come un occhio di gatto. Parlava un poco con un alpino del suo plotone e bestemmiava in modo gentile, con voce armoniosa e da salotto. Mi si avvicinò. Come va, vecchio? Disse. Va bene, risposi. Va bene, ma fa un po' freddo. Naia potente se faceva freddo. Attorno a noi c'era una gran confusione. Si sentiva parlare tedesco, ungherese e italiano in tutti i dialetti. Poco lontano bruciavano delle isbe e dei magazzini e la neve attorno riverberava la luce rossastra sino ai limiti del villaggio, dove poi incominciava la steppa. E laggiù bruciava anche il paese che avevamo lasciato nel pomeriggio. Ogni tanto si sentivano scoppi e il rumore di motori, ma pareva che di là dal chiarore rossastro degli incendi non vi fosse più nulla. Il mondo finiva là, diavolo. E noi dovevamo andare più avanti di quel buio. Ma le scarpe erano come legno, la neve secca come sabbia e le stelle pareva che strappassero la pelle come speroni. Nel paese non era rimasto nessuno, non c'erano nemmeno vacche, pecore, oche. Lontano nel buio si sentivano abbaiare i cani. I nostri muli erano con noi e con le orecchie abbassate sognavano le mulattiere delle Alpi e l'erba tenera. Mandavano vapore dalle narici come le balene. Avevano il pelo coperto di brina e mai erano stati così lustri. E i pidocchi anche c'erano, i nostri pidocchi che se ne fregavano di tutto e stavano al caldo nei posti più reconditi. Ecco, pensavo, se dovessi morire, i pidocchi che ho addosso, che fine farebbero? Creperanno più tardi di me quando il sangue nelle vene sarà come vetro rosso oppure resisteranno sino a primavera? quando al caposaldo mettevamo fuori le maglie con 40 gradi di freddo per 2 giorni e 2 notti e le indossavamo dopo averle asciugate vicino alla stufa, subito i pidocchi si facevano vivi. Erano robusti e forti. «Rigoni, vuoi una sigaretta?» dice Cenci. «Fumo. Almeno il fumo è caldo». Antonelli impreca. «Ci muoviamo o no? Che facciamo qua?» e bestemmia. Ascoltando quelli che erano qui prima di noi, veniamo a sapere che i carri armati russi, arrivati fin qui, hanno portato il terrore. Ma ora siamo in tanti. Una divisione ungherese, un corpo corazzato tedesco, la divisione Vicenza, quello che è rimasto della Julia, la Cuneense e noi della Tridentina. E poi tutti i servizi, autoreparti, sussistenza, genio, sanità, eccetera. Buona parte di questi ultimi hanno già abbandonato le armi nella neve e sono convinti di essere già prigionieri. Prigionieri si è, penso e dico, quando un soldato russo ti fa camminare dove vuole puntandoti un fucile, ma non come ora. Sergeant Maggiù, che arriveremo a Baita. È Giovanni che si è avvicinato. Che arriveremo, sì, Giovanni, gli dico. Ma non pensarci ora alla Baita. Salta tra la neve per non gelarti i piedi. Finalmente, il maggiore Bracchi, che si era allontanato in cerca di ordini, ritorna. Ci muoviamo finalmente, ma torniamo indietro. Andiamo di retroguardia, dice il tenente Pendoli. Sempre a noi tocca, brontoliamo. E quelli del Tirano diranno altrettanto. Vestù, avanti da questa parte, grida Bracchi. Si cammina nella neve alta. Ogni tanto si batte la testa sull'elmetto del compagno che sta davanti e ogni tanto bisogna correre per star sotto. I magazzini e le isbe bruciano e qua e là si sente gridare in tedesco. Passiamo vicino a dei grossi panzer col motore acceso, per non gelare, penso. Camminando così nella neve, do dentro col piede in un barattolo e lo raccolgo. È mezzo pieno e al chiarore di un incendio vedo che contiene roba da mangiare. Introduco la mano senza levarmi il guanto. Questa è la manna di Mosè, marmellata e burro mescolati insieme. Mi lecco il guanto, i baffi, mangio camminando e mangiano quelli che mi sono vicino. Non so quanto abbiamo camminato. Ogni passo pareva un chilometro e ogni attimo un'ora. Non si arrivava mai e non finiva mai. Finalmente ci fermiamo a delle isbe isolate. Sistemo il mio plotone in un edificio in muratura. Saranno state le scuole o la casa dello starosta. Vi troviamo anche dei soldati dell'autocentro. Questi sono come i pidocchi, s'annidano dappertutto. E c'è un fuoco, e c'è caldo e persino paglia sul pavimento. Ah, com'è bello buttarsi giù e cavarsi l'elmetto e mettere lo zaino sotto la testa, stretti al caldo l'uno vicino all'altro. Finalmente possiamo chiudere gli occhi e dormire. Ma chi è che mi chiama lì fuori? Andate al diavolo! Lasciatemi dormire! Uno apre la porta e fa il mio nome. Vada al capitano, ti vuole! Ho dentro un fuoco che mi brucia. Mi alzo. I miei compagni sono già addormentati e russano. Per uscire devo pestare i loro piedi. Bestemmiano, aprono gli occhi, si girano dall'altra parte e ritornano a dormire. Fuori è freddo. È tutto silenzio. Il portaordini non c'è più. Tante stelle ci sono, invece, come in un cielo di settembre. Ma erano belle allora le notti di settembre, nei campi di grano e papaveri. Tiepide e amorose come la terra, queste stelle. Ora non so se è un incubo o se uno spirito maligno si diverte alle mie spalle. Non c'è nessuno fuori. E vado a cercare il capitano che mi vuole, che avrà da dirmi. Cerco in un'isba, non lo trovo, busso alle altre, mi rispondono in tedesco, Raus, in bresciano, in Kulet. Trovo i fucilieri della mia compagnia e mi chiedono se voglio entrare a dormire con loro. Cerco il capitano, dico, è qui? No, mi rispondono. Giro tra i cavalli degli ungheresi e cerco il capitano. Lo chiamo per le piste che portano nella steppa, nessuno mi risponde. Le stelle mi straziano la carne, mi viene da piangere, da maledire. Vorrei istintivamente uccidere qualcuno. Pesto con ira la neve, agito le braccia, faccio crocchiare i denti, i sassi mi ballano nella gola. Calmati, non impazzire, calma. ritorna nell'isba del tuo plotone e ritorna a dormire. Chissà cosa ti attenderà domani. Domani. Ma è già l'alba. Laggiù incomincia il crepuscolo. Le mattine al caposaldo, quando rientravo nella tana calda ed era pronto il caffè, le mattine prima di venir soldato, quando andavo per legna e sentivo il canto degli urogalli, le mattine che salivo alle malghe col mulo grigio, e lei starà dormendo tra lenzuola di bucato nella sua città di mare, e dal mare entrerà nella stanza il primo chiarore dell'alba. Ma sarebbe meglio buttarsi su quel mucchio di neve a dormire, chissà come sarà morbida. Allerta, sta allerta, cerca l'isba del tuo plotone. Stringo i denti e i pugni e do calci nella neve. Ritrovo l'isba, entro e mi lascio cadere fra i corpi caldi dei miei compagni. Ma non dormo forse nemmeno un'ora, perché Cenci batte alla porta e dice forte: plotone mitraglieri, sveglia! Fate presto, si riparte, Rigoni, sveglia! E sento i miei compagni che si alzano in silenzio e arrotolano le coperte, poi le bestemmie di Antonelli. Come desidererei dormire. Dormire ancora un poco solo, non ne posso più, o impazzisco o mi sparo. Ma pure mi alzo, esco, raduno il plotone, controllo per vedere chi manca, vado in cerca dei ritardatari e facendo questo ritorno quello di sempre. Non penso più né al sonno né al freddo. Mi assicuro se non abbiamo lasciato nulla nell'isba, munizioni o armi. Controllo i presenti. Guardo se le armi sono pulite, tiro il carrello di armamento e premo il bottone a vuoto. Questo mio fisico è davvero meraviglioso. Muscoli, nervi, ossa. Non credevo prima d'ora che potesse sopportare tanto. Ci avviamo verso l'altra estremità del villaggio. Gli altri plotoni della compagnia sono già partiti e noi siamo gli ultimi. Sorpassiamo le slitte degli ungheresi e un gruppo di artiglieria alpina. Nel fondo di una balca, non tanto profonda, ci riuniamo alla compagnia. Ma il capitano manca. Il maggiore Bracchi, impaziente, cammina avanti e indietro sulla neve. Mi chiama e mi manda a cercare il capitano e una compagnia che manca. «Fa presto», mi dice Bracchi. «Dobbiamo andare all'assalto e cercare di aprire la sacca». Torno a rifare la strada e lo trovo, il capitano. Sta su una slitta. Mi chiama mentre sono ancora lontano. «Rigoni, paesano», dice. «Ho la febbre. Volevo fermarmi in un'isba». No, non sto bene. Dov'è la compagnia? Capitano, dico, la compagnia è laggiù. E indico con la mano. Vi aspetta. Mi ha mandato in cerca di voi il maggiore. Sono con il capitano, l'attendente e il conducente della slitta. Il suo aspetto non è più quello di una volta, gioviale e furbesco, ma con la coperta tirata sulla testa come uno scialle e il passamontagna infilato sino al collo non sembra più il contrabbandiere di Valstagna. «Portatemi dov'è la compagnia», dice il capitano. «Non lasciatemi solo. Sono il vostro capitano, no? Non vorrete mica lasciarmi solo. Sono il vostro capitano. Ho la febbre», ripete. «Andiamo», gli rispondo. Trovo un tenente della compagnia che manca con il suo plotone. «La compagnia sta venendo», mi dice. Ma intanto abbiamo fatto tardi e al nostro posto sono andati il Verona e un battaglione del quinto. Si sente già sparare. Sparano forte. Si odono le raffiche secche dei mitra russi, le nostre pesanti, i colpi acuti dei fucili, qualche scoppio di mortaio e anche di bombe a mano. Deve essere dura lassù. Sento brividi per la carne, mi pare sentire le pallottole cucire la mia anima e ogni tanto trattengo il respiro. Mi viene una grande malinconia e un gran desiderio di piangere. Lassù, dove sparano, una fila di isbe sul dorso di una mugila. «E bisogna passare», dicono, «perché al di là c'è una strada da dove ci possono venire incontro le motorizzate tedesche». Ma i russi non vogliono lasciarci passare. Sparano, sparano, sparano e io ho paura. E se fossi con loro, no! Mi pare che qualcosa si stacchi da me a ogni raffica, a ogni esplosione. Noi siamo qui pronti ad intervenire. Vorrei finirla di stare ad aspettare in questa balca fredda a ridosso del villaggio con questa angoscia. Passeranno o è davvero finita? I miei compagni sono stanchi. Ogni tanto un uomo del mio plotone se ne va. Gira per il villaggio tra le slitte degli ungheresi. Questi sono i più passivi, più neutri di tutti. Hanno le slitte stracariche di lardo, salumi, zucchero, tavolette di vitamine, ma niente armi e munizioni. Gli alpini girano attorno alle slitte, sornioni, con le mani in tasca, l'aria da fessi. Quando ritornano fra noi, tirano fuori pezzi di lardo e salami di sotto i pastrani. Abbiamo acceso un gran fuoco. Ci stiamo attorno a cerchio e ogni tanto ci voltiamo per scaldarci da tutte e due le parti. Si chiacchiera e il vino è l'argomento principale. Quando sarò a casa voglio fare un bagno in una botte di vino, dice Antonelli. E io mangiare 3 gavette di pasta asciutta, aggiunge Bodei. Si è dimenticato ormai che a casa si mangia nel piatto. E fumare un sigaro lungo come un alpenstock. Serio e convinto, guardando il fuoco, Meschini dice: fare una sbornia di grappa e liquefare con il fiato tutta la neve della Russia. Ma ogni tanto si sta zitti e lassù continuano a sparare. Sparano, dice Antonelli, e bestemmia. Turn, grida, battendogli una mano sulla spalla. E butte, e mese butte, barbera, e grignolin. E Turn alza la testa. Gli occhietti da scoiattolo sotto il passamontagna s'accendono. Basta che sia la beve, dice. Ma qui, porca naia, non c'è niente. Un fuoco che ti affumica davanti e neve che ti agghiaccia dietro. I tenenti, Cenci e Pendoli, chiamano adunata vicino alle slitte della compagnia. C'è qualcosa da distribuire. Sono gli ultimi viveri che ci vengono dati come razione e che i cucinieri sono riusciti a portare sin qua. Io ero convinto che non ci fosse più nulla. I sacchi delle pagnotte sono incrostati di neve e odorano di cipolla, di carne, di conserva, di fumo di caffè, dell'odore dei cucinieri, insomma. Ci sono 2 pagnotte per ciascuno, dure, gelate, vecchie, e dalle slitte esce anche una forma di reggiano, e anche quello è gelato. Per spaccarlo il tenente Cenci deve prendere un'accetta e poi l'aiuto io con la baionetta a fare le razioni per i plotoni. C'è anche cognac. Quando il cuciniere tira fuori i bidoni ne sentiamo l'odore, annusiamo l'aria come i cani da caccia e quelli che sono lontani si fanno sotto. Capisquadra, fuori le gavette! Quante volte ho fatto le razioni in 4 anni di naia. Una gavetta sino ai chiodi del manico, 8 razioni di vino, un gavettino di cognac, 1 squadra. Ma di cognac ora ce n'è di più e le parti le fa Cenci. Ritiro con i capisquadra la roba per il mio plotone. Attorno al fuoco beviamo il cognac. Attorno al fuoco. Antonelli bestemmia. Turn si liscia i baffi. Meschini mugola. Cenci viene da noi. In gamba pesante, dice, e ci dà da fumare. Naia potente. So che vicino a noi del Vestone ci dovrebbe essere il battaglione del genio alpino della nostra divisione, ove ho i paesani, e vado in cerca di loro. Trovo il Vecchio e Renzo. Vengono dalla battaglia, dove erano di collegamento presso il colonnello Signorini. Appena li vedo camminare stanchi sulla neve, mi ritorna alla memoria che in settembre erano venuti a trovarmi in linea. E tanto bene era nascosta la mia tana nel campo di grano che quasi ci cascavano dentro con la motocicletta che montavano. Strano il rumore della motocicletta nel campo di grano. Solo quello si sentiva. E io, sdraiato nella tana, pensavo: chi sarà? Ed erano loro, i miei paesani, che mi portavano un sacchetto di frumento per fare il pane. Quel giorno avevo un bidoncino di vino, 1 mese di razioni arretrate. Mi sembrava di vedere il mio paese nell'incontrarli. Ciao Renzo! Ciao Vecchio! Mario! Mario! Vengono dal combattimento e sono stanchi. Questa volta non arriveremo a casa, Mario. Ci lasceremo la pelle. I russi non ci lasciano passare, dice il Vecchio. Ed è triste. Chissà quanti ne avrà visti morire. Chissà cosa sarà passato per la sua radio. Renzo invece è sempre uguale. Se avesse un fiasco di vino o sentisse una quaglia cantare nella vena, alla sacca non ci penserebbe più. Ma forse non ci pensa nemmeno adesso. Su, coraggio, paesani, dico. Vedrete che festa faremo quando saremo tornati. Che pasta asciutta e che sbornie. Ci sarà anche lo scelli con l'armonica e le ragazze e grappa. Ma il vecchio sorride sfinito e gli occhi gli luccicano. Chiedo loro di Rino. Non sanno dirmi dove sia e così vado a cercarlo. Trovo il tenente medico del suo battaglione. Mi dice d'averlo visto un attimo prima. Mi rallegro, almeno è vivo. Chiedo di lui ai suoi compagni. Era qua adesso, mi dicono. Lo chiamo, ma non riesco a trovarlo. Incontro Adriano e Zanardini. Coraggio, dico, ce la faremo. Ritorno dove è il mio plotone. Mi metto dietro un'isba e accendo il fuoco. Non so come, mi trovo assieme al Marco dalle Nogare. Marco, che non si risparmia mai con nessuno, amico di tutti. Con lui mi sento meglio anch'io. Nella tasca del pastrano ho trovato un pacchetto di verdura essiccata. Facciamo sciogliere la neve nella gavetta e la mettiamo a bollire. Mangiamo insieme. Canaia, Marco. Ma siamo abbastanza allegri noi due. E parliamo di quando in Albania abbiamo vuotato una bottiglia di doppio Kümmel. Dopo mangiato, Marco ritorna con i portaordini del comando di reggimento. Come passano lente le ore. Il freddo aumenta con l'avvicinarsi della sera. Lassù non si è deciso ancora niente e gli spari si fanno sempre più radi. Anche le raffiche sembrano stanche. Il cielo è tutto verde e celeste, immobile come il ghiaccio. Gli alpini parlano poco e sottovoce fra di loro. Juanin mi si avvicina, mi guarda da sotto la coperta che si è tirato sulla testa e non dice niente e torna via. Vorrei chiamarlo, gridargli: perché non mi chiedi se arriveremo a Baita? È freddo e si fa sera. La neve e il cielo sono uguali. A quest'ora nel mio paese le vacche escono dalle stalle e vanno a bere nel buco fatto nel ghiaccio delle pozze. Dalle stalle escono il vapore e l'odore di letame e latte. I dorsi delle vacche fumano e i camini fumano. Il sole fa tutto rosso. La neve, le nubi, le montagne, i volti dei bambini che giocano con le slitte sui mucchi di neve. Mi vedo anch'io tra quei bambini. E le case sono calde e le vecchie vicino alle stufe aggiustano le calze dei ragazzi. Ma anche laggiù, in quell'estremo lembo della steppa, c'era un angolo di caldo. La neve era intatta. L'orizzonte viola e gli alberi si alzavano verso il cielo, betulle bianche e tenere, e sotto queste un gruppetto di isbe. Pareva che non ci fosse la guerra laggiù. Erano fuori dal tempo e fuori dal mondo. Tutto era come 1000 anni fa e come forse tra 1000 anni ancora. Lì aggiustavano gli aratri e le cinghie dei cavalli. I vecchi fumavano, le donne filavano la canapa. Non ci poteva essere la guerra sotto quel cielo viola e quelle betulle bianche, in quelle isbe lontane nella steppa. Pensavo, voglio anch'io andare in quel caldo. E poi si scioglierà la neve, le betulle si faranno verdi e ascolterò la terra germogliare. Andrò nella steppa con le vacche e alla sera, fumando macorca, ascolterò cantare le quaglie nel campo di grano. D'autunno taglierò a fette le mele e le pere per fare gli sciroppi e aggiusterò le cinghie dei cavalli e gli aratri e diventerò vecchio senza che mai ci sia stata la guerra. Dimenticherò tutto e crederò di essere sempre stato là. Guardavo in quel caldo e si faceva sempre più sera. Ma poi sentii un ufficiale che chiamava Adunata e sorrisi. Adunata, Vestone! 55, Adunata! Si radunarono le compagnie, i plotoni, le squadre. Si ritornava a fare la retroguardia. Era sera e non capivo dove si andava. Vedevo attorno a me gente che camminava e io andavo con loro. Dopo, quanto dopo, ci fermammo vicino a delle costruzioni basse e lunghe, isolate nella steppa. Lì trovammo 3 o 4 carri armati tedeschi e un gruppo di artiglieria alpina. Le costruzioni dovevano essere state o magazzini di qualche kolkhoz o stalle. Dentro faceva freddo e c'era odore di muli e per terra paglia mista a letame. Tra le fessure si vedevano le stelle. Non so dove andarono le altre compagnie. Noi ci fermammo. Stabilii il turno di vedetta e misi fuori le sentinelle del mio plotone. In una buca accesi il fuoco con degli sterpi e nella neve liquefatta feci bollire una pagnotta gelata. In tasca avevo anche un cartoccio di sale. Andrea Pennacchi ha letto Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.